noche yo viene lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Io, come molti avranno capito, mi lascio fortemente condizionare da ogni aspetto dell'irrazionale, ma allo stesso tempo riesco a guardare con sufficiente distacco, divertimento e curiosità questo mio atteggiamento. Oggi l'irrazionale sembra fortemente condizionare l'emotività comune, anche la trattatistica quotidiana che leggiamo nei giornali, che vediamo nei telegiornali. Insomma, esiste un discrimine molto difficile da riuscire a comprendere tra l'annuncio fantastico, con certezze assolute, di verità scientifiche, di nuove scoperte della scienza, di mirabolanti rimedi al tedio dell'umanità, come ad esempio il recentissimo annuncio della scoperta dell'anello mancante tra scimmia e uomo, con un nuovo cranio trovato in quella che viene chiamata la culla della civiltà, e allo stesso tempo una meravigliosa, fantastica, plateale, entusiastica approvazione per tutto ciò che trascende da ogni nostra razionale possibilità a verificare quello che noi vediamo raccontarci. Cerchiamo di capirne di più. Venerdì 21 dicembre, anno 2012. È questa la data che antiche profezie indicano come la possibile fine del mondo. C'è chi prevede l'Apocalisse o l'Armageddon e chi invece parla di una nuova era cosmica, un'epoca di grande pace e armonia. In entrambi i casi i segni premonitori sembrano iniziare già a manifestarsi. E tutto ciò che c'è da interpretare è scritto in tempi antichi nella pietra e nei calendari segreti di un antico popolo americano, i Maya. L'antico popolo mesoamericano dei Maya aveva un calendario la cui lunghezza era di 5125 anni. Cominciava nel 3114 a.C. e terminava nel 2012. Insomma, mi sembra abbastanza palese che ormai noi da un anno e mezzo, due anni circa, diamo quasi per scontato il fatto della fine del mondo nel 2012. Lo diamo quasi per scontato perché c'è una vasta trattatistica, un'importante pubblicistica, un'illuminata trattatistica su questo tipo di problema. Vari programmi televisivi hanno messo in campo le più illuminate menti, le più razionali e scientifiche intelligenze a dimostrarci questo potrebbe accadere, e noi siamo portati naturalmente a pensare che in fondo, se lo dicono in tanti, lo dicono personaggi così autorevoli, possa essere senz'altro vero. Anche gli Hopi, che sono nativi americani del sud-ovest degli Stati Uniti, hanno profezie che riguardano la fine del nostro mondo e l'ingresso in un nuovo mondo. La profezia che ci riguarda più da vicino in questo frangente storico è quella relativa al ritorno di Blue Star Cacina, ovvero degli antenati, dei Cacina, di coloro che diedero per primi l'impulso alla civiltà degli Hopi. Ci sono state molte ipotesi per cercare di capire chi sia, cosa sia Blue Star Cacina. Si parla di un corpo celeste composto di entità incorporee ma in grado di assumere forma umana, dicono gli Hopi, che ciclicamente è già entrato nel nostro sistema solare, se ne è allontanato e ora sta tornando. Potrebbe trattarsi forse della cometa Alebop, che comparve nel 1997. Alebop era qui tra noi 54.000 anni fa, quando probabilmente vi fu una dislocazione. Allora, a dire con grande certezza quello che accadrà della nostra civiltà, della nostra umanità, di questi mitici ritorni, è il professor Enzo Braschi, lo ricordate, faceva il paninaro a Drive-In, che parla appunto delle previsioni di quello che accadrà, di capovolgimento, di risollevazione cosmica, di avveramento profetico nel 2012. Ora io, essendo aperto a tutte le convinzioni, a tutti i meravigliosi e visionari punti di vista, non tanto i punti di vista ma tanto all'aspetto visionario, non voglio solamente mettere in dubbio, anche perché non ho prove scientifiche dell'inesattezza di quello che dice Braschi, ma nemmeno ho la possibilità di verificare se quello che lui dice possa corrispondere a verità. Ma quello che osservo, senza cercare il vano e pretestuoso senso della verità, quello che trovo abbastanza straordinario che è questa pubblicistica, questa trattatistica, questa sorta di misteriosofica corrente sapienzale che una volta era riservata ad alcune specializzate case editrici proficuo dominio e frequentazione di chi aveva comunque desiderio di capire cosa ci fosse nelle pieghe della storia, nelle pieghe di ciò che veniva scientificamente verificato, potesse capire, comprendere o avere interesse e curiosità per sapere quali sono i vari infiniti mondi che gli uomini sono sempre immaginati e prefigurati per dare delle dimensioni alla loro ansia visionaria. Beh, oggi è diventato un argomento che infarcisce i palinsesti televisivi, le pagine interne dei giornali, le trattazioni negli stessi luoghi dove viene celebrata concretamente la certezza. Ecco, qual è il discrimine fra certo e incerto? Qual è la possibilità di definire ciò che è scientificamente verificabile, ciò che appartiene al mondo della realtà concreta, almeno come tale noi siamo per convenzione abituati a considerare, ciò che invece appartiene al mondo del fantastico, della fantasia, del mitologico, del mondo degli atti di fede, mondi altrettanto rispettabili ma non condivisibili con questa altrettanta certezza. Il futurologo Gordon Michael Scallion, basandosi su scenari molto complessi, ha addirittura realizzato una possibile nuova mappa del mondo. I continenti non avrebbero più gli stessi contorni di oggi. Nuove isole emergerebbero dagli oceani, mentre intere zone verrebbero cancellate. In Italia rimarrebbero solo alcune zone alpine e appenniniche. La Sardegna e la Corsica, invece, formerebbero un'unica grande isola del Mediterraneo. Già immagino che se io dessi credito, volessi ammantare di credito le mie parole, ciò che io tratto come documento, in questo momento provocherei una scarnificazione gonadica intensa nella Sardegna e nella Corsica che potrebbero ascoltarmi, per il fatto che potrebbero essere sommerse o remerse o ammassate o accorpate. Ma questo molte volte viene trattato e fornito con la stessa certezza di una verificata e verificabile notizia dagli stessi organismi di diffusione del sapere che comunemente capitano in mano a qualsiasi cittadino. Ora, io non voglio qui essere né difensore né illuminatore delle letture altrui, delle fonti certe di realtà altrui, ma vorrei fare una riflessione con il mio pubblico, che può chiamare all'800240024. Avete voi una possibilità di definire e di discriminare ciò che è scientificamente accertato o accertabile, o perlomeno sulle quali si possa fare con pace un punto di certezza, ciò che invece appartiene al grande mondo del fantastico, all'illusorio ma meraviglioso e utilissimo mondo del fantasticare? 800240024. Gli scienziati divulgano le loro conoscenze fin dagli albori della civiltà. Eppure, milioni di americani ed europei ignorano concetti insegnati da secoli in tutte le scuole. Lo dimostra uno studio della National Science Foundation americana, che ogni anno pone a 2.000 persone scelte a caso 25 domande sulla conoscenza del mondo e del metodo scientifico. Fra queste, il Sole gira intorno alla Terra o la Terra intorno al Sole? Al centro della Terra la temperatura è altissima? Il latte radioattivo è innocuo se viene bollito? L'aria scaldata sale? Esiste anche una radioattività naturale? Nel 2002 solo il 67% degli europei sa che la Terra gira intorno al Sole, gli altri pensano che il Sole giri intorno alla Terra. Solo il 23% sa che gli elettroni sono più piccoli degli atomi e più del 50% crede che non esista la radioattività naturale. Queste sono solo alcune ipotesi, alcune riflessioni, alcuni luoghi comuni che probabilmente possono essere contraddetti nell'esperienza individuale di quanti ascoltano. Ma vediamo di fare qualche passo concreto avanti, perlomeno nel nostro porsi questa domanda. Professor Gianni Fochi, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Il professor Gianni Fochi è un chimico della Normale di Pisa, ma ha anche scritto un libro, Fischi per fiaschi, nell'italiano scientifico, edizioni Longanesi. aggredisco con lei subito quello che potrebbe essere una prima risposta rispetto alla domanda che ho fatto. È colpa del pressapochismo che trasforma i luoghi comuni in frasi fatte, quelle che possono essere delle verità scientifiche come quelle che possono essere semplicemente delle meravigliose, fantastiche elucubrazioni della volontà umana di immaginarsi mondi possibili? Ma certamente il pressapochismo ha un ruolo notevole ed è dovuto alle volte al fatto che per una sorta di tradizione si considera cultura soltanto quella umanistica e certi suoi aspetti collaterali. E in realtà anche la scienza è cultura, la cultura è una sola, e il fatto di trattare appunto con pressappochismo dei termini che sono comuni al linguaggio scientifico e al linguaggio di ogni giorno porta la persona che non ha una formazione scientifica in situazioni che sono scorrette dal punto di vista proprio semantico del significato. Le posso esempio così capiamo di cosa stiamo parlando. Si va dalle cose un po' curiose comunque sono tutte situazioni che impediscono la comprensione della situazione com'è. Ecco, alcune curiose, ogni tanto si sente parlare del nitrogeno o per fenomeni di inquinamento o per altri motivi e tutti si domandano che cos'è questo misterioso, sarà anche tossico, che ne so, questo nitrogeno. In realtà è solo una non traduzione dell'inglese nitrogen, scritto nitrogen, che è il nostro banalissimo azoto, costituisce l'80% dell'aria che respiriamo, quindi sicuramente non è pericoloso. Ma quindi è necessario che un chimico della Normale di Pisa spieghi questa banalissima traduzione errata o esagerata ai nostri divulgatori scientifici per mettere un lume di chiarezza rispetto a questo fenomeno. A me fa molto sorridere il fatto che parliamo di nitrogeno quando sarebbe più semplice dire azoto, che è una cosa. Sì, lo so, infatti anche se curiosamente se uno va a vedere la storia del nome di questo elemento c'erano due correnti parallele all'inizio nella Francia del Settecento e ce n'era una proprio che puntava in questa direzione dal latino nitrogenium, generatore di sal nitro, però poi prevalsa l'altra dalla Lavoisier, azoto, cioè gas che non permette la vita perché è la parte dell'aria che non mantiene in vita. La parte dell'aria che ci mantiene in vita è circa 20% di ossigeno che essa contiene. Ecco, fermiamoci solo un secondo. Stefano Morigi, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Stefano Morigi, filosofo della scienza, ormai noto frequentatore di Melog. Proprio mi fermo all'esempio del professore che abbiamo appena sentito, Gianni Fuchi, ma occorre anche nella trattazione, nella divulgazione scientifica questa sorta di latinorum, questa specie di linguaggio esoterico che mantenga la distanza e mantenga quella fumosità necessaria del compilatore delle notizie per fare tutto un grande calderone in cui il calendario Maya e la fine del mondo del 2012 vadano di pari passo appunto al nitrogeno e all'anello mancante fra uomo e scimmia. Quando si vuole far confusione, sì, quando si vuole giocare sull'impreparazione e sulle false credenze della persona, questo tipo di trucchi non solo è necessario, ma è addirittura auspicabile, ma quanto più lo si applica, tanto più ci si allontana dalla scienza, non solo dalla scienza come cultura, come il professore prima ricordava, ma dalla scienza come forma di educazione. Nessuno chiede che il pubblico debba avere la preparazione di un ricercatore in tutte le materie. Sarebbe però auspicabile che l'educazione alla mentalità scientifica diventasse patrimonio comune come forma di antidoto verso questi imbonitori, queste persone che della scienza prendono l'abito sbagliato per far filtrare delle credenze che nulla hanno a che fare con la ricerca e molto con un immaginario su cui si può lavorare e soprattutto anche lucrare in molte occasioni. Senti Stefano, proprio che tu sei filosofo della scienza, ci sono state epoche paragonabili a questa in cui la cosiddetta divulgazione scientifica, cioè il racconto della scienza, ha raggiunto dei punti di collisione così intensi con la divulgazione dell'irrazionalità? prendiamo la televisione ad esempio, so che sono temi a te cari, il caso Giacobbo e tanti simili, luoghi di somministrazione comunque della divulgazione del sapere in cui l'aspetto scientifico e l'aspetto folcloristico, mitologico, fideistico, che meritano comunque la loro considerazione, non voglio dire, vengano messi sullo stesso piano in un nuovo genere, in un nuovo calderone di racconto delle vicende dell'umanità. Sai, è un po' sempre successo questa sovrapposizione di linguaggi. D'altra parte il bisogno di certezze ha sempre accompagnato la storia dell'uomo, soprattutto nei momenti di crisi esistenziali, di crisi storiche, di crisi economiche. E allora in quelle circostanze c'è bisogno di essere rassicurati. E la scrittura della scienza non è una scrittura molto rassicurante, perché non è una scrittura pubblica, rivedibile, controllabile, quindi è sempre cancellabile dalla lavagna quello che abbiamo scritto, perché è stato scoperto qualcosa di nuovo, una leggenda, una profezia, e uso queste parole nella versione deteriore che anche alcuni monitori televisivi che tu prima ricordavi usano a sproposito, e invece rassicura di più, magari terrorizza, ma nella sua linguaggio è capace di dare una ricetta o un mostro da cui allontanarsi, e questo è paradossalmente rassicurante. Perfino nell'epoca della rivoluzione scientifica, tanto per farti un esempio concreto, Galileo, che è stato uno dei campioni della scrittura scientifica, per guadagnarsi la pagnotta e arrivare a fine mese, come si sa gli scienziati non sono poi così tanto pagati, faceva lui stesso gli oroscopi, non perché ci credesse, ma perché gli consentivano di guadagnare quei soldi con cui arrivava a fine mese facendo lo scienziato sull'alta scrivania. Sentiamo qualche ascoltatore, già vedo che l'argomento comincia a interessare in questo binomio. Ci dice Morigi che in realtà credere nel leggendario, nel mitologico, nel fantastico rassicura molto di più che credere nel razionalmente certificato. Fabrizio, buongiorno. Buongiorno Gianluca, saluto anche i due professori. Io sono un appassionato studioso della Bibbia e mi incuriosiva il fatto del diluvio. Oggi sta piovendo a Roma, in effetti. Stranamente sta piovendo. Ecco, e mi mette molta tristezza. Di Borgo Manero, Angelo Palego, ha fatto diverse spedizioni per cercare l'arca di Noè sul monte Ararat. E l'ha trovata? Effettivamente, no, non l'ha trovata. Però nel 1912 una persona che ora non c'è più, insieme allo zio, lui allora dodicenne, afferma di avere in un periodo di disgelo di essere riuscito a calarsi con delle corde in un relitto di legno su quella zona della montagna Ararat e averne toccato addirittura il legno. Ora, beh, una bella cosa questa. Lui non c'è più e io non mi ricordo il nome, ma l'ho letto poco tempo fa in una rivista chiamata Torre di Guardia. È quella dei Testimoni di Geova, Torre di Guardia, però. Esatto, bravo. E poi ci sono tante leggende del diluvio in tutto il mondo, addirittura il numero 8 in cinese è fatto con una barca con 8 persone sopra. Pensi un po'. E quindi ci sono tante combinazioni. E quindi ci sono dei mammut con l'erba in bocca che sono stati congelati all'istante, quelli si trovano nei musei. E questo diluvio allora può darsi pure che ci sia stato. Lascio la domanda ai tuoi ospiti. Vediamo come risponderanno. Grazie Fabrizio. Angelica. Buongiorno. Allora, adesso per fortuna mi ha fatto un po' diventare di buon umore questo signore con il mammut con l'erba in bocca. Perché lei era triste? Sì, perché a me questi argomenti... Si facevano un cannone i mammut, anche loro se potevano. Sì, forse stava bene dopo. Ecco, infatti sono estinti. Questi discorsi sul 2012 finisce il mondo così. È preoccupata? Invece fanno un effetto di profondo disagio, di malessere, di Devo dire che i fatti della vita e le singolarità che possono accadere nel corso di una trasmissione radiofonica fanno sì che il momento in cui parliamo di Apocalisse con la Nostra Signora ce n'è data la notizia di un grave incidente ferroviario. Lasciamo la linea alle informazioni della Borsa. 800240024, stavamo discutendo sulle possibili fascinazioni per quelle che sono le teorie del fantastico, le lucubrazioni del mitologico rispetto a quelle che sono le certezze della scienza. Lo stiamo facendo con una nostra ascoltatrice che era stata interrotta però dalla breaking news. È Angelica. Angelica, buongiorno, ancora in linea? Oh, sì, sono ancora in linea. È stata interrotta, riprendiamo da dove ci eravamo lasciati. Ecco, io volevo dire questo, che a me piace per esempio moltissimo la fantascienza, fin da quando ero ragazzina, i film, tutto quello che è anche magico, fantastico, però si è relegato giusto in queste cose o nei miei pensieri. Ma le persone che vogliono invece spaventare le altre, perché secondo me alla base c'è proprio questo, voler spaventare gli altri, fanno molto male, perché vedo di questa faccenda del 2012, me ne hanno parlato delle persone, delle amiche, gente colta, però priva di fantasia, cioè sì, con una certa malevolenza dentro, perché non puoi dire queste cose, puoi guardare al parchetto i bambini che giocano, gli animaletti, gli scoiattoli e tutto, e tranquillamente fare oggetto di conversazione che tutto questo sparirà. Cioè, questo mi sembra proprio quindi lei è fortemente colpita da questa profezia che fra due anni finirà il mondo, cioè è portata a crederci. Sono abbastanza vecchia per ricordarmi quando c'erano, ero piccola, però mi ricordo, sì, c'erano delle persone sul Monte Bianco che aspettavano la fine del mondo. Però stanno ancora lì a aspettare, però. Ecco, appunto, quindi io queste cose non ci credo. Non credo che qualcuno sia in grado di prevederlo. Credo che ci saranno dei disastri, che ci sia stato sicuramente... Sì, ma allora perché si angustia questo, ai giardinetti? Perché i bambini, cioè come le persone che invece dicono di crederci, fanno finta di preoccuparsi, vogliono portare delle tesi scientifiche che supportano questa loro idea, secondo me non fanno altro che dare una voce al loro malanimo nei confronti di tutta la parte dell'umanità. Sì, ma vendono anche un bel po' di libri, hanno anche un discreto successo quando fanno delle convention, va tanta gente ad ascoltarli. Quello che diceva prima Morigi, diciamo, oggi conviene molto di più fare il profeta, il santone, il maestro di vita, piuttosto che fare il serio scienziato. Cioè, sono ancora in linea? Sì, come no, sto parlando con me. Sì, no, allora dico, lì oltretutto c'è un desiderio di protagonismo incredibile, secondo me, cioè quello che c'ha la verità, che ha la catastrofe incombente, ha più stuolo di altri, e poi sicuramente anche delle questioni economiche, perché questa gente viene pagata, vende libri, cioè è proprio un aspetto brutto dell'umanità, secondo me. Beh, diciamo che l'umanità ha anche questi aspetti variati. Riprendiamo un attimo con il nostro primo ospite, il professor Gianni Fochi, che ricordo che è un chimico della Normale di Pisa, che ha scritto Fischi per fiaschi in italiano scientifico, edizioni Longanesi. Professor Fochi, riesce alla luce della perplessità dei nostri ascoltatori dare anche qualche altra prova di quello che potrebbe essere una responsabilità nella divulgazione, il pressapochismo nel dare le notizie o per riferire fatti certi che vengono messi sullo stesso piano, anche seppur semantico, dei fatti incerti o fantastici? Sì, senz'altro, anche l'uso di termini. Uno che compare in questo mio libro è chimico, nella sua contrapposizione a naturale. Ecco, questo è proprio qualcosa che serve a generare la paura di un po' di tutto, perché la chimica entra ormai dappertutto, come è sempre entrata del resto dappertutto. Il chimico viene usato come impropriamente come sinonimo di artificiale, di sintetico, ignorando che la stessa natura in tutto ciò che è materiale si serve della chimica. Noi stessi siamo fatti, per la nostra parte materiale, di sostanze chimiche, ecco, e se viviamo è perché ci sono degli enzimi che permettono le trasformazioni biochimiche nel nostro organismo a una velocità fantastica, e gli enzimi sono sostanze chimiche, mentre si attribuisce al termine naturale un significato miracoloso, ignorando per esempio che nella storia le più grandi intossicazioni hanno avuto un'origine naturale. E ancora, il botulino che manda tanta gente al cimitero è un batterio, e la sua tossina è quindi qualcosa di perfettamente naturale che si trova purtroppo alle volte nelle conserve mal preparate. E ancora tanti cibi cosiddetti naturali presentano magari il rischio di muffe o che hanno delle tossine, anche quelle molto forti, o addirittura se si vuole evitare per esempio di ricorrere a pesticidi, si riesce ogni tanto a selezionare delle varietà in agricoltura delle varietà di piante che in realtà resistono ai parassiti, ma perché si fanno da sole i loro pesticidi, che magari sono ancora più nocivi di quelli che può preparare l'uomo in laboratorio. Ecco, io l'ho lasciata parlare, professor Fochi, ma si rende conto che il rettificatore scientifico è una figura che la gente non vuole ascoltare, perché toglie quelle fantastiche certezze nell'irrazionale che, come diciamo Riggi, come stiamo capendo anche dai nostri ascoltatori, aiutano a dare spessore, come se ci fosse all'esistenza, come se ci fosse bisogno di ricrearsi delle sottoreligioni parallele, che è la confidenza esasperata nel racconto dell'irrazionale attraverso i media, che avverte, che deve avvolgere in sé sia l'aspetto delle cosiddette nozioni scientifiche che quello delle nozioni fantastiche o mitologiche. Ma sicuramente è un ruolo difficile questo del rettificatore, come lei ha detto, però bisogna che qualcuno se lo prenda, anche perché nella gente c'è una buona fetta che in realtà vuole informarsi e magari rimane un po' sconcertata, però finisce col pensare. L'ultima voce di questo mio libro è Verità, e dove dico che la verità nel linguaggio scientifico ha un significato diverso da quello comune. Innanzitutto, la verità della scienza, come più o meno è già stato detto, è qualcosa di provvisorio, cioè che vale fino a prova contraria. Ciò nonostante, nel mondo materiale la scienza è l'unica vera via per arrivare almeno vicino a una verità, che poi possa essere raggiunta del tutto o no è un'altra questione. Certamente, se all'uomo della strada si comincia a dire: guarda amico, sì, ti dicono che chimico è una parolaccia, che invece naturale è qualcosa di miracoloso, sta attento, non è sempre così, ti puoi finire all'altro mondo anche se prendi una conserva fatta in casa che magari non è stata fatta con le norme igieniche scrupolose, o comunque ci può essere sempre l'incidente, ecco. Allora, la marmellatina della nonna che nasconde il botulino in realtà è un pericolo, appunto, molto grosso. Anche quella persona che non si era mai posto il problema, piano piano comincerà a porselo, se è una persona che davvero cerca di informarsi e non cerca di essere abbindolato. Ecco, di fronte a chi cerca di essere abbindolato e contento così c'è poco da fare, però io sono sicuro che, cioè, io ho fiducia in una larga parte della gente, degli esseri umani come me, che io ho fiducia che desiderino essere informati. Per questo ho scritto questo libretto, perché i termini che usano, che sono alle volte, uno non se l'aspetta nemmeno, ecco, per esempio il vetro è fragile, lo sanno tutti, però è duro. Ecco, allora c'è una contraddizione fra queste due. Vediamo cosa vuol dire duro nel senso scientifico. Il diamante è durissimo, però non è vero che se gli dai una martellata sopra resiste, se si rompe, come? Ecco, insomma, può essere anche fragile nello stesso tempo, perché duro non è il contrario di fragile. Stefano Moriggi, che fine hanno fatto, per quello che tu sai ti riguarda, nella storia i rettificatori scientifici? La storia del pensiero, diciamo, va. Sono sempre sopravvissuti, come ricordava Folchi poco fa, ai margini, tentando di fare il loro lavoro, chiusi nei loro laboratori e nelle occasioni che gli si prestava di renderlo pubblico e divulgarlo. Però, sai, la divulgazione spesso in Italia è un equivoco, diventa banalizzazione della scienza e non comprensione di una verità, per usare una parola delicata che è stata usata, in realtà complessa, sofisticata, contingente, sempre riscrivibile. Il professore ha toccato una parola cruciale su cui le ideologie più sofisticate operano quotidianamente: natura. Tu pensa cosa può voler dire l'espressione, per fare un esempio tra i tanti possibili, famiglia naturale. No, è un ossimoro, è una contraddizione in termini, può essere una famiglia tradizionale, può essere il modello più consolidato sotto certe latitudini, ma non c'è nulla di meno naturale di una famiglia, che è un prodotto culturale. Ora tu pensa come solo questo esempio viene somministrato quotidianamente come modello da perseguire contro altri, come... Perché in questo si procede in questo modo? Perché la parola natura, come diceva prima Folchi, è rassicurante. È una parola che rassicura, quindi tutto ciò che è naturale ci fa sembrare qualcosa è buono, di tiepido, buono. Tutto ciò che è artificiale va guardato con sospetto. Grazie Stefano Morigi. Bene, è venuto il momento di sentire realmente il polso del nostro pubblico dopo le teorie e le certezze esperse dai nostri ospiti. Sentiamo quelle che sono le certezze espresse da un campione, secondo me significativo, di quello che è il sentire nazionale. Ferdinando, buongiorno. Buondì. Niente, ecco, volevo raccontare semplicemente questa esperienza. Tempo fa, 2 settimane fa, sono stato a un convegno, un incontro che durava 2 giorni sul 2012. Ora, nell'occasione i relatori, c'erano peraltro alcuni scienziati che, non so, Vittorio Marchi o Dan Winter, di fama internazionale, che prendevano parte e raccontavano in qualche modo la loro visione. E ora, quale era la loro visione? La loro visione, un pochino, non è che sul 2012, su questo discorso di fine del mondo, così... cioè, è un pochino più complesso. Ci sono stati 2 giorni, ci sono stati 20. Cioè, finisce o il mondo? Cosa è venuto fuori dal convegno alla fine? La sintesi? È venuto fuori, per quanto mi riguarda, io sono scettico, ho partecipato così tanto per partecipare, un po' di confusione, però sicuramente si sono accese delle piccole luci, no? Si sono trattati tantissimi argomenti: acqua diamante, impianti rettiliani. Sì, no, ma la sintesi, in una domanda, per quello mi interessa, se alla fine di questo convegno hanno detto finisce o no il mondo il 2012? No. Non finisce. Perfetto, non questo, finisce. Questo ci conforta. Simone. Sì, buongiorno a tutti. Una domanda, o meglio una questione che mi pongo da sempre, che la Terra comunque è destinata a morire, in quanto, essendo girando intorno al Sole, il Sole dà vita, il Sole, se non sbaglio, è costretto a spengersi nel tempo. Quindi quando questo non darà più calore, non darà più la sua energia, credo che la Terra... Secondo lei questa cosa... andrà a lambire la sua dimensione storica, la sua avventura esistenziale? Cioè, lei vedrà la spegnersi del sole? No, questo allora no. Perché si però, preoccupa? No, però è una previsione, no, visto che immagino quando... Sì, ma sono previsioni talmente lontane nel tempo perché dovrebbero fare parte della sua preoccupazione. Immagino che quando i Maya o chi ne so, quando si diceva che comunque dovranno, che il mondo andrà a finire nel 2012, quando hanno fatto questa previsione, tutti quanti non andavano a lambire la propria esistenza nel momento in cui la scrivevano. Però è una previsione, secondo me, realistica, in cui non possiamo dare una data, quindi un termine assoluto, però possiamo sicuramente stabilire che ci sarà un momento in cui piano piano la vita sulla Terra finirà. Sì, io posso dire, ho una visione molto rozza e di questo non mi vergogno, dell'esistenza. Per me veramente il vero dilemma, la vera angoscia esistenziale, è con chi dividerò il mio margarita questa sera. Giorgio, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. Io chiamavo per dire che cioè, noi abbiamo le prove scientifiche che gli UFO sono tra di noi, ma questo, cioè, voglio dire, da decenni. Il problema è che le loro tecnologie sono talmente avanzate rispetto alle nostre, cioè che loro hanno per esempio motori, cioè leggevo anche spessissimo in molte riviste, loro usano motori... Quali sono le sue fonti? Perché sono molto curioso di ascoltarle, le fonti che le danno questa certezza. Ma ci sono tantissime riviste di settore, tantissimi programmi come Voyager che sono scientifici, poi loro usano motori... Ecco, cosa la fa pensare che abbiano una credibilità scientifica questi programmi e queste riviste? Beh, ma perché, cioè, abbiamo le foto, c'è cioè un sacco di gente che li ha visti, le dimostrazioni scientifiche. Ma io potrei raccontarle, questa mattina ho visto un polipo gigantesco uscire dalla metropolitana, lei mi crederebbe? No, però... E perché me non deve credere, Giacobbo deve crederlo? Ma perché sappiamo che hanno motori materia antimateria, cioè abbiamo le foto per esempio del dietro, la parte nascosta della Luna, loro l'hanno colonizzata da secoli, cioè ci sono le loro edifici lì sopra da dove... Sentiamo allora un vero scienziato che sicuramente riuscirà a confortare, queste sue teorie. Professore Gianni Fochi, capisco per un chimico è difficile portare certezza a questo signore, ma cosa avrebbe da aggiungere visto che il tema è proprio quello che noi tocchiamo? La certezza conclamata delle fonti che raccontano queste storie. Senta, sull'argomento specifico... Ma no, in generale, lo prendiamo come... In generale... Questo signore è portato a credere a quello che vede perché è scritto da qualche parte. Senta, la scienza ha un suo metodo che si è evoluto a partire da Galileo qualche secolo fa. Ecco, Questo metodo, riassunto in soldoni, proprio in termini estremamente rozzi e semplici, consiste nella verificabilità, come ha detto anche appunto Morigi prima, cioè è scientifico tutto quello che viene comunicato e in modo che sia verificabile. Ecco. Poi vede l'afflato che c'è nelle persone nel dare certezza a ciò che in fondo sembra soddisfare le nostre inquietudini. Esiste la materia e l'antimateria, non lo metto in dubbio, sono cose abbastanza complesse, ma che esistano gli UFO, hanno dei motori che funzionano ad antimateria e tutte queste vicende che fanno parte anche di una trattatistica meravigliosamente fantascientifica diventano certezza perché è bello credere in queste cose. Filippo. Sì, buongiorno. Come la pensa invece? Buongiorno. Volevo riportare la discussione più precisamente sul discorso della comunicazione, nella filiera in cui ci sono gli scienziati che sono quelli che scoprono, che sanno le cose, e poi il problema è passarlo alla gente. Io da 20 anni mi occupo di divulgazione e il vero problema è proprio questa figura del divulgatore che in parte esiste ma non ancora. E purtroppo i docenti universitari sono molto restii alla divulgazione perché spesso la considerano una banalizzazione, per cui il suo ospite è sicuramente un'eccezione, ma sarebbe molto interessante parlare con loro proprio per fargli capire che noi divulgatori spesso abbiamo difficoltà nell'accedere alle informazioni che poi vogliamo divulgare. Quindi voi, il divulgatore serio e cosciente, trova una difficoltà di interfaccia con lo scienziato che è chiaramente perfettamente consapevole che nel suo stretto cerchio delle divulgazioni, delle pubblicazioni scientifiche, sa con chi parla e sa quali sono gli argomenti, al di fuori di quelle non ha nemmeno interesse a divulgare. Gli stupidi ammirano e amano tutte le cose che distinguono appena, nascoste da parole astruse, e accettano per vere quelle cose che accarezzano dolcemente l'orecchio e che sono mascherate da un gradevole suono. Lucrezio, De Rerum Natura. Stefano Morigi, a te filosofo la conclusione. Lucrezio, che ci hai fatto sentire, ci consegna una lezione preziosa, cioè che l'educazione alla scienza, nel suo caso alla struttura atomica della materia, non spaventava e non terrorizzava, ma allontanava le paure e il controllo anche indotto da falsi dei e falsi idoli sulle esistenze dei singoli. Quindi un grande invito a conoscere il mondo per non averne paura e affrontarlo con coraggio. Ecco, tu cosa dici dell'ultima battuta del nostro ascoltatore, della difficoltà di interfaccia fra chi tratta la scienza e tocca la scienza e chi poi vuole divulgarla? È necessario divulgare la scienza? È necessario, sì, come dicevamo all'inizio della trasmissione, è una forma di educazione che va al di là della competenza tecnico-scientifica, è una mentalità che aiuta a vivere, esattamente quella che Lucrezio, traducendo la cultura greca in quella romana, avrebbe voluto prendesse piede per costruire una nuova mentalità, una nuova morale e anche una nuova politica. Grazie a Stefano Morigi, grazie al professor Gianni Fochi, ci sentiamo domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.